We'll continue now with the new language you'll need for the next section of the dialogue. As usual. Ascolti l'italiano, l'inglese, di nuovo l'italiano e poi ripeta. Fino a. Until. Fino a. Martedì. Tuesday. Martedì. Oggi. Today. Oggi. Venerdì. Friday. Venerdì. Quattro notti. Four nights. Quattro notti. Posso. I can or can I? Posso. Una firma. A signature. Una firma. Qui. Here. Qui. To test yourself on those words and phrases, listen to the English, then in the pause say the Italian. After you hear the correct answer, repeat it in the second pause. Until. Fino a. Tuesday. Martedì. Today. Oggi. Friday. Venerdì. Four nights. Quattro notti. I can or can I? Posso. A signature. Una firma. Here. Qui.